Ma con un po' di lucidità devo dire che non mi aspetto nulla, perché quel che è veramente desolante in tutta questa discussione è che stiamo parlando di temi che abbiamo discusso, io credo, con queste stesse parole 15 anni fa. Basterebbe aprire i cassetti, diciamo, che da 15 anni più o meno sono chiusi, per trovare esattamente più o meno tutto quello che avremmo bisogno di fare e che non abbiamo fatto, di cui abbiamo parlato per 15 anni, ma di cui tutti, destra, sinistra, senza eccezioni, assolutamente non abbiamo fatto in questi 15 anni. Forse. Ma perché? Perché è così forte la presa di chi è tutelato, per così dire, dalla mancanza di libertà, come diceva Dalla Vedova, o semplicemente per mancanza di consapevolezza della classe politica? No, io credo che per un verso certamente ci sia la volontà di non andare ad intaccare interessi che, quando si coalizzano, possono essere, diciamo, molto robusti apparentemente, perché poi è chiaro che, diciamo, il vantaggio sarebbe così diffuso e ampio nella popolazione che un governo che volesse veramente aggredire determinati nodi non potrebbe che trovare il sostegno, diciamo, popolare da questo punto di vista. Su un punto in particolare io credo invece che ci sia stato e ci sia tuttora proprio un errore di fondo logico, che è quello del funzionamento della pubblica amministrazione, che è dietro gran parte delle cose che stiamo dicendo. Lì io credo che continuiamo a sentire questa stucchevole litania delle semplificazioni che non ha portato praticamente a nulla da 15 anni a questa parte, mentre invece dovremmo cominciare a recitare una cosa diversa: la pubblica amministrazione deve fare di meno, noi dobbiamo cominciare a tagliare le cose che la pubblica amministrazione fa, perché dietro la mole di operazioni che si richiede alla pubblica amministrazione di fare, in realtà si nasconde l'inefficienza e spesso anche la corruzione, bene che ce lo diciamo. Quindi cominciamo a far sì che la pubblica amministrazione faccia di meno per poterlo fare al meglio. Qui io credo che siamo concettualmente ancora lontani, perché naturalmente, diciamo, io non ricordo un ministro della funzione pubblica che abbia impostato la questione in questi termini, purtroppo.